un altro appuntamento con Gabriella Cialdone per il nostro podcast, e questa volta riguarda gli eventi, le manifestazioni. Qual è stata la prima manifestazione a quale sei andata? Qual è quella che ricordi con maggior affetto? Purtroppo abbastanza sfortunata, quella in cui ho conosciuto te. D'altra parte non si può avere tutto, ecco. Era, diciamo, l'anno era l'84. 84 ed era, sì, Fantasia a Cattolica. Era Fantasia Cattolica, tramite l'amico Pandolfi, che purtroppo non è più con noi, e che mi contattò con questa frase assolutamente accattivante: ho bisogno di una mano, sono senza soldi, puoi venire? Io andai. E dopo di questa? Dopo di questa, purtroppo, sono quelle cose che uno dice smetto quando voglio, e invece finisce a Courmayeur, e finisce a San Marino, sballottato di qua e di là, sempre senza soldi. Però si conoscono tantissime persone, e devo dire che nel momento in cui sei a una di queste convention, al tavolo del bar, e vicino a te ci sono a parlare di fantascienza un primario dell'ospedale famoso di Torino, un insegnante di filosofia della matematica a Bologna, e un arbitro di scacchi internazionale di Bari, parlate tutti della stessa cosa, ma parlate anche di voi stessi, ovviamente, e si impara, si impara, si impara.